Voi volete la guerra, ma la guerra in Calabria non la vince neanche il Papa. Ecco, questa è stata la frase pronunciata nei confronti di due vertici, di due rappresentanti, uno italiano e l'altro tedesco, di Lidl Italia. Perché questa ditta di trasporti aveva perso l'esclusiva. Cosa è successo? A un certo punto Lidl Italia dice, per abbassare i prezzi del costo del trasporto, che incidevano del 5% sul fatturato, dicono a questa impresa: noi vogliamo aprire la concorrenza, vogliamo farci trasportare le nostre merci anche da altre imprese di trasporto. Ebbene, si rivolgono a queste altre imprese di trasporto, alcune rifiutano, altre acconsentono, ma nell'acconsentire sentiamo la ricostruzione di quello che accade il 26 settembre del 2009. Il lavoro della Lidl in Calabria deve essere fatto dai calabresi. Per oggi scarichi, ma se ti rivediamo in queste zone, passerai i guai tu e la tua azienda.